frasi che non dico mai, quelle che mi rappresentano di più. Se vuoi scoprire chi sono, sono i silenzi che tu indosserai, quelli che mi faranno pensare a te e a tutto quello che è stato e non vola più. Il tempo da quando sei andata a Milano, sai, non mi passa più. Ma io ritornerò a inseguire il sogno di fare la spesa senza pensare a te. Che perderai quando noi ce ne andremo via così, che mi metteranno al tappeto, perché è già successo e tu questo lo sai, del nostro tempo resterà così soltanto un filo in mano e non vola più. Il tempo da quando sei andata a Milano, sai, non mi passa più. Ma io ritornerò a inseguire il sogno di fare la spesa senza pensare a te.